известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. I would like to welcome you all to the 10-day anniversary of my first 100 days. Oh, questo ci mancava, ma ce lo siamo goduti e ci siamo anche molto divertiti. È l'Obama comedian. All of you voted for me. Benvenuti al 10° giorno versario del mio 100° giorno di presidenza. Tanto to the Fox table. Avete votato tutti per me, lo so. Io sono quello che, come nessun protagonista della storia, ha nominato 3 segretari del commercio in una settimana, praticamente. E ho portato anche delle facce nuove, facce giovani nell'amministrazione, come Arlen Specter, 79 anni. Michael Steele is in the house tonight. Michael Steele, l'ultimo dei repubblicani, come dice lui, è qui oggi? What's up? Non chiedetemi soldi per il bailout in favore di Rush Limbaugh, non lo consideriamo una industria a rischio. Where is Michael? Is he, Michael, for the last time, the Republican Party does not qualify for a bailout. Ecco, appunto, poi ha detto che basta, è stufo delle gaffe di Joe Biden, aria nuova, vita nuova, lui smetterà di usare il gobbo e il suo gobbo lo presterà a Joe Biden. A little bit about what my administration plans to achieve in the next 100 days. During the second 100 days. Poi ha detto, le mie figlie oggi le ho lasciate a casa, insomma sono state cattive. Ma cos'è questa storia di farsi prestare l'Air Force One per farsi un giro sopra Manhattan? In the next 100 days I will learn to go off the prompter and Joe Biden will learn to stay on the prompter. Poi ha detto che nella serata era molto spiacente che non presenziasse Dick Cheney, ex vicepresidente della Casa Bianca, George W. Bush. Ha detto comunque è giustificato perché è molto occupato, sta scrivendo la sua autobiografia, il titolo provvisorio è come sparare agli amici e interrogare le persone. What's up, John? Poi pare che sia in costruzione nei secondi 100 giorni di Barack Obama, sarà in costruzione una grande biblioteca destinata a ricordare, alla memoria dei primi 100 giorni. E poi ha detto Barack Obama, credo che i miei primi 100 giorni siano stati molto, molto, molto, molto di successo. Anzi, se la volete sapere tutta, io sarei stato anche capace di completarli in 72 giorni. E insomma, quando dovesse, come dire, lasciare la Casa Bianca per un motivo o per l'altro, per fine mandato, fine secondo mandato, chissà quando, una carriera in televisione non gliela leva nessuno. A Mr. Barack Obama, formidabile intrattenitore, nel corso di questa serata un po' particolare, la serata dell'Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca, gli habitué, quelli che ci vivono dentro, ci pascolano, ci mangiano il panino, telefonano alla moglie, raccontano vita, morte e miracoli del presidente, è tradizione che in questa occasione, non so se vi ricordate cose molto sinistre tipo Karl Rove e George W. Bush che rappano su una improbabile base, insomma ne fanno di tutti i colori, lui se l'è cavata tranquillamente facendolo lo spiritoso, dicendo cose come Hillary Clinton non potrebbe essermi più vicina, appena tornata dal Messico mi ha abbracciato forte forte. scherzare sulle proprie responsabilità e sulla portata impressionante, no, del compito a cui si è incaricato. Un'altra magnifica, un po' difficile da tradurre, anzi intraducibile in quanto oscena, ha detto: Rahm Emanuel è l'unico che quando festeggia il giorno della mamma alla parola mother non attacca la parola day, ma ne attacca un altro, però siamo in fascia protetta, non si può dire quale. Rahm Emanuel è uno che parla pesantuccio, parla sporcuccio, ma insomma questo era per partire leggera l'evento, come dire, sociale della Casa Bianca nel weekend. Però invece ci sono cose più serie che passiamo a raccontarvi, la prima delle quali è questo annuncio a sorpresa di un nuovo viaggio oltreoceano del presidente americano, con un programma molto ambizioso, perché alla visita in Normandia, ai luoghi dello sbarco, il 65esimo anniversario dello sbarco in Normandia, che si terrà il 6 giugno in compagnia naturalmente di Sarkozy e di tanti altri ospiti di primissimo piano, e anche in coincidenza con la visita che Barack Obama farà in Germania, in un incontro molto molto atteso con il cancelliere Merkel, ci sarà anche un'altra tappa che adesso è stata fissata per il 4 giugno, data nella quale dall'Egitto, secondo la promessa, no, che ha formulato ad Amman in Giordania il 22 luglio 2008, in piena campagna elettorale, Obama ha detto: se sarò eletto nei primi mesi della mia presidenza verrò in un paese arabo per parlare al mondo musulmano. Ebbene, perché proprio l'Egitto? Perché sotto molti aspetti è il cuore del mondo arabo, ha detto Gibbs, il portavoce della Casa Bianca, specificando che quello che dalla Casa Bianca Barack Obama pronuncerà sarà un major speech, un discorso fondamentale, non un discorso ai leader, ma un discorso al popolo arabo, a testimonianza del continuo tentativo di questo presidente, di questa Casa Bianca, di dimostrare che si può lavorare insieme per assicurare sicurezza, per cercare di dare un futuro di speranza e di opportunità alle generazioni, sia di questo paese sia del mondo musulmano. Noi non saremo mai in guerra con l'Islam, è quello che ha sempre ripetuto Barack Obama. A proposito di Islam, a proposito di discorsi di grande portata per il mondo intero, quello che sta parlando ora e che vi facciamo ascoltare in diretta è alla presenza di Shimon Peres, è Benedetto XVI, credo, nel giardino prospiciente il museo dell'Olocausto, a cui farà visita in questo momento. Ascoltiamo Papa Ratzinger. Sette vir gesser as du gesser as one, but there is a proviso: we must seek him and seek him with all our heart. To the religious leaders present this afternoon, I wish to say that the particular contribution of religions to the quest for peace lies primarily in the wholehearted, united search for God. Papa scopertamente in missione di pace, in missione politica in Israele, a Gerusalemme, in questo momento, davanti ai notabili religiosi e politici del paese. E dedicheremo la seconda parte del programma alla visita del Benedetto XVI in Terra Santa, con una chiacchierata con Filippo Di Giacomo, sacerdote e giornalista, al seguito in questo momento del viaggio papale, magari daremo anche qualche anticipazione sul discorso che sta facendo, qualche cenno relativo al discorso in questione. Una notizia da mettere in coda, quindi, a quello che sta accadendo a Gerusalemme in questo momento, quello che accadrà in Egitto il 4 giugno, questo discorso al mondo arabo che Barack Obama vuole pronunciare, insomma, questa questa grande mobilitazione e anche grande mobilità dello scenario medio orientale. Arriva dall'Iran, dove è ufficiale. Roxana Saberi è libera, è uscita dalla prigione, lo rendono noto fonti giudiziarie citate da TV arabe. È uscita dal carcere Evin a Teheran, condannata in prima istanza a 8 anni di carcere per spionaggio, pena ridotta in appello a 2 anni, e è autorizzata, sarebbe autorizzata anche a lasciare il paese. Ecco qualche anticipazione. Ecco, tra l'altro arriva un'altra informazione relativa a Barack Obama. Il Cremlino ha annunciato la visita di Barack Obama in Russia dal 6 all'8 luglio, quindi si prevede un attacco di estate, una fine primavera attacco di estate intensissimo di Obama sullo scenario internazionale. Questa è un'agenzia appena uscita. E il presidente israeliano Shimon Peres ha affermato: tutti noi ebrei, cristiani, musulmani, popoli di fede, riconosciamo che la sfida di oggi non è la separazione della religione dallo Stato, ma la separazione senza compromessi della religione della violenza. Peres si è così espresso nel dare il benvenuto nella residenza a Benedetto XVI, ha affermato che la maggior parte dei popoli della regione aspirano alla pace malgrado le nuvole politiche che oscurano ancora l'orizzonte e le voci di incitamento che offuscano il suono della pace. Su quanto questo così Peres, su quanto ha detto Benedetto XVI, sentiremo tra qualche momento. Ora invece tocca a voi, daremo a voi la parola con Express Yourself. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take ya. Bermuda, Bahama, come on pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band down in Kokomo. Chiamato i prodotti della modernità, lo spazio di Express Yourself di oggi, a seguito di un weekend con notizie che hanno destato l'interesse, in certi casi la preoccupazione, in certi casi la soddisfazione di chi se ne è dato pena, di chi le ha seguite. Però essendo un weekend di sole, magari adesso si sta sintonizzando su quello che accade sulle nostre coste o al di fuori delle nostre coste. Di fatto 500 immigrati respinti in 5 giorni, rispediti in Libia senza passare dei centri di prima accoglienza, è la politica dei respingimenti, già ha un nome. Gli ultimi sono stati un gruppo di 200 migranti, 42 donne e 2 neonati, riportati a Tripoli a bordo del pattugliatore Spica, a soddisfazione della Lega. Stiamo facendo proseliti, dice Bossi. I vescovi invece parlano di un'Italia multietnica e multiculturale che è un valore ed esiste già di fatto, nelle parole del segretario della CEI Crociata. Il leader del PD Franceschini accusa la maggioranza di inventare tutto ciò per coprire il fallimento del governo sulla politica dell'immigrazione. Il rabbino di Segni evoca le leggi razziali. Vi abbiamo chiesto come interpretate queste notizie che modificano uno scenario che sembrava un prodotto del contemporaneo, migrazioni compresi. Invece i prodotti di questa modernità potrebbero essere diversi, potrebbero chiamarsi politica dei respingimenti. E sentiamo le vostre, credo, assai difformi, assai vari punti di vista sull'argomento. E in effetti il popolo di Facebook è variegato e dalle mille sfumature. Ci sono molti favorevoli ai respingimenti delle navi di immigrati che arrivano vicino alle nostre coste, ma ci sono anche molti che invece sono duramente contrari e sono anche molto arrabbiati. Cominciamo da chi è favorevole a respingere al mittente le navi con gli immigrati clandestini. Allora c'è Stefano che dice: non si avrà mai un'Italia multietnica fino a quando non si riuscirà a regolarizzare gli ingressi. È ora che l'Europa inizi a fare qualcosa di concreto al posto di continuare con finti moralismi. Poi c'è Giuseppe che è davvero arrabbiato, dice: mi sono sinceramente rotto le scatole di sentire lezioni di democrazia e di umanità dai professorini di bontà per conto terzi, si riferisce in particolar modo ai politici. Per prima cosa i respingimenti sono avvenuti in acque internazionali, quelli invece soccorsi vicino a Lampedusa, quindi acque territoriali italiane, sono stati regolarmente portati nei centri di accoglienza. Seconda cosa, riguardo alla società multietnica, ci pone una domanda interessante Giuseppe. Domando a quelli che tutto sanno se quella che abbiamo subito finora è una società multietnica così realmente tale, oppure un coacervo di identità che sgomitano tra di loro? Che è la stessa cosa. Può darsi, in effetti. Luca dice: secondo me abbiamo dato solo un segnale, anche tardivo, che non possono entrare tutti. Non sono contrario al multietnico, ma sono contrario al totale finto buonismo vistosi finora. Umberto: la paura del diverso, di città, lo sbando e senza sicurezza è popolare. E è lì che Bossi si è infilato, come sempre, per trovare voti e spostare l'asse del governo. Il Cavaliere lo segue per necessità di non lasciare troppi fianchi all'alleato e di far dimenticare l'Alario. Gran paese, Claudio: pur capendo il dramma umano che accompagna chi affronta un viaggio, indifferente al pericolo e alle avversità che le carrette dei mari comportano, per poter migliorare le proprie condizioni di vita, ritengo inconcepibile che la problematica di stampo europeo sia lasciata in mano solo all'Italia. E infine ci metto anche Massimo che dice: evviva, tutti i paesi mettono in atto delle politiche di contenimento migratorio, finalmente lo facciamo anche noi. Cosa succede? Il Vaticano pontifica e l'opposizione invoca leggi razziali. Strano paese il nostro. Strano paese il nostro. Sono quasi tutti d'accordo. Allora, bellissimo messaggio di Cristiano che ci informa innanzitutto che in questo periodo sta leggendo il libro di Goldhagen, I volenterosi carnefici di Hitler, grande storico tedesco, che di fatto chiamava tutti i tedeschi alla colpa, alla complicità perlomeno, nel genocidio degli ebrei, di tutti i misfatti del regime nazista. Insomma, partendo da questa lettura dottissima e molto profonda, scrive: forse prima di arrivare al clima di odio che ha pervaso tutta la società tedesca dell'Ottocento per sfociare nel genocidio hitleriano, per quanto ci riguarda, dato che si iniziano ad avere gli inquietanti segnali in Italia che stiamo vedendo in questi giorni, è il caso di metterci una pezza prima. Quindi cupo insomma il messaggio di Cristiano, preoccupato soprattutto per il futuro. Ugo invece fa due conti: si può dire di tutto, che è fuori dalla realtà, che è inumano, che è demagogico, ma ne riparliamo l'8 giugno, cioè il giorno dopo le elezioni europee ormai alle porte. Raffaella dice: sono contraria a una immigrazione di massa senza regole né controlli, ma concordo con Monsignor Crociata quando dice che l'Italia multietnica è uno stato di fatto che occorre pertanto gestire. Luca: a mio avviso il governo sbaglia ad attuare una politica di respinta così indiscriminata. Gli immigrati onesti sono una risorsa economica da non sottovalutare. C'è anche Paolo: ho il sangue che mi ribolle a sentire queste cose. La cultura italiana è il sunto di secoli di scambi culturali tra Nord Europa e bacino del Mediterraneo, e il Premier dice che non si vuole un'Italia multietnica. Sbalorditivo. Allora, Enrico invece scrive: il sistema di rimpatrio usato fino ad oggi era insostenibile per i costi, perché non funziona da deterrente, perché le strutture indispensabili all'accoglienza e alla permanenza in attesa di identificazione sono al collasso. I respingimenti sono una soluzione eccellente addirittura. Invece Alessandro è del tutto contrario, dice: purtroppo in Italia siamo ancora indietro sulla questione multietnica e con questo governo lo saremo ancora di più. In Europa siamo presi per i fondelli, uso un eufemismo, da tutti. E chiudo con Simone: tanti restano fuori, avete scritto veramente in tantissimi. Simone: la media degli arrivi di clandestini via mare è all'incirca di 6.000 persone, in pratica è una quantità davvero minima rispetto alla mole di nuovi arrivati irregolari. Questa è una... Quindi il problema è altrove, tutto sommato. Certo, ma poi guardiamo che succede altrove, per esempio nell'armatissima frontiera sudamericana, quanti sono che la passano clandestinamente. Insomma, anche per chi la pensasse come il Senatur, non è che ci sia troppo da far festa. Sulla società multietnica credo che Berlusconi abbia preso una cantonata. Il problema persiste, il dibattito è aperto, secondo me sarà bene tornarci. Notizie destinate a essere guida in questa settimana di scenari internazionali è certamente il viaggio di Benedetto XVI in Israele. È arrivato oggi in Israele, la fase poi più delicata del pellegrinaggio del Pontefice in Terra Santa. Il Papa è arrivato a Tel Aviv proveniente dalla Giordania alle 11 ora locale, erano le 10 ora italiana. Ha trovato ad accoglierlo Shimon Peres e Benjamin Netanyahu, tanti notabili del governo israeliano, alcune personalità anche religiose, molte altre le incontrerà nel corso del viaggio. Ha detto alcune parole significative, è andato dritto allo scopo, ha parlato subito di antisemitismo, ha detto: sfortunatamente l'antisemitismo continua a sollevare la sua ripugnante testa in molte parti del mondo e ciò è inaccettabile, chiede ogni sforzo per combattere l'antisemitismo dovunque si trovi. Dopo il trasferimento da Tel Aviv a Gerusalemme ci sarà un breve momento di riposo per Benedetto XVI e poi Papa Ratzinger, dopo una veloce visita di cortesia nella residenza del presidente israeliano, andrà in visita al memoriale dell'Olocausto, lo Yad Vashem, uno dei momenti più drammatici, anche più attesi di questo viaggio papale. Sentiamo a questo punto Filippo Di Giacomo, sacerdote, giornalista, amico del nostro programma, spessissimo presente qui in trasmissione e comunque tutte le settimane in onda su Radio 24. Lo abbiamo raggiunto qualche minuto fa per le strade di Gerusalemme, dove si trova per commentare e seguire il viaggio di Papa Ratzinger, e dalla sua voce in presa diretta, così cerchiamo di percepire le emozioni e il senso di questa missione papale. prima di tutto salutiamo Filippo. Buon pomeriggio Filippo. Buon pomeriggio a voi. Dove ti trovi innanzitutto? Sto gironzolando per la Città Vecchia nel tentativo di fare delle riprese per la moschea Al-Aqsa e il muro del pianto, però da queste parti in questi giorni non sei ebreo non entri, non sei musulmano non entri, però per fortuna si può entrare liberamente nelle chiese cristiane. Senti, scusa, come si fa a capire che non sei musulmano e non sei ebreo? Beh, è scritto sulla carta d'identità. Dalle agenzie, che dai servizi, dai telegiornali che arrivano da queste parti, si ha la sensazione di una atmosfera di grande, sincera preoccupazione proprio per la sicurezza del pontefice, per il buon andamento della sua visita, ma al tempo stesso, come dicevo in apertura, si ha anche come dire, un po' si annusa un po' il senso di una certa solennità, come se questa visita insomma dovesse lasciare le cose almeno un po' differenti da come erano appena qualche giorno prima. È così, per esempio, con le parole spese da Benedetto XVI appena sceso dall'aereo sul territorio israeliano, sono già un segno con quella condanna decisa che ha formulato dell'antisemitismo, ha detto continua a sollevare la sua ripugnante testa in molte parti del mondo, questo è totalmente inaccettabile. Insomma, è un discorso di metodo, un'apertura del discorso, Filippo? Beh, intanto dal punto di vista simbolico rimanda al serpente del paradiso terrestre, il momento in cui l'uomo ha separato dalla sua coscienza la verità che rappresenta il nome di Dio. Quindi il segnale è stato forte, preciso e tutti l'hanno capito. E hanno anche capito che il Papa ha accettato un po' la sfida di questo viaggio, perché non gli è stato chiesto di venire a fare prediche, gli è stato veramente chiesto in modo molto esplicito di venire a parlare di politica. Perché, come ha detto Peres tre giorni fa, i maggiori giornali israeliani, dice mettiamoci bene in testa, che costruire ponti tra l'ebraismo e il musulmanesimo, e il Papa è costruttore di ponti. Diciamo così, di la forte insistenza che anche nei suoi discorsi Benedetto XVI ha fatto, anche Cardinal Martino, visto che ha fatto la sponda sui giornali italiani, dicendo che però bisogna innanzitutto cominciare ad avanzare proposte possibili, non bisogna parlare di massimi sistemi, bisogna essere realisti. Bisogna cominciare a parlarsi, a dire le stesse parole dando lo stesso significato. Diciamo che così è un discorso sul metodo, e questo gli israeliani credo che lo sappiano. E forse, se permetti, perché così la dico tutta, dico che questa è la vera sfida, perché gli israeliani sanno benissimo perché è venuto a dirlo a Gerusalemme nel 1997, che Ratzinger è il teologo che ha detto che Gesù Cristo sulla croce rappresenta la perfetta realizzazione della legge mosaica, cioè è il perfetto ebreo, contrariamente alla teologia cosiddetta liberale, cioè quella dei teologi anglosassoni e luterani, che vogliono Gesù Cristo piuttosto come un antitetico all'ebraismo, anzi come una critica radicale all'ebraismo. Questo, diciamo così, la dice lunga sul fatto che un Papa che passa per conservatore e dice delle cose rivoluzionarie in senso teologico, e quelli che lo criticano dicono cose ancora legate alla teologia di Martin Lutero. Però il problema vero è che su questo fatto i tedeschi, quando è stato eletto, hanno detto noi siamo il Papa, cioè abbiamo sbagliato, abbiamo pagato, ci siamo vergognati, abbiamo chiesto scusa, però adesso giriamo la pagina. Beh, possiamo dire che è stata un'annata, come dire, intensa sul tema per Benedetto XVI, sì, questo 2009. Insomma, di episodi ce ne sono stati tanti, di un segno e dell'altro anche. Sì, però credo che questo sia, diciamo, il muro dove tutti devono metterci buona volontà, perché comunque è un Papa, però è un Papa tedesco che lo dice. E politicamente quelli che, diciamo così, sarebbero anche disposti a attribuirgli massimo la simpatia di fronte al salto politico che questo rappresenta, è un po' difficile. Questa notizia che all'aeroporto, insomma, tutte le agenzie si sono subito scatenate a fare la lista del chi c'è e chi non c'è, come alle feste di quelli ricchi. Insomma, pare che non c'erano i due rabbini capi di Israele, la cosa è stata molto notata, e non c'era neanche il presidente della Knesset. È qualcosa di cui si discute, di cui si parla? Ma Ma il rabbini capo di Israele li incontra, e quindi diciamo così, non ci sono andati, ma ci sono altri rappresentanti dei due rabbinati, c'erano i segretari generali e quelli addetti alle relazioni con il cattolicesimo, perché con i rabbini è un incontro fissato. Però c'era l'intero governo, compreso gli ultranazionalisti, e forse il presidente della Knesset, prima o poi sapremo anche che magari non è potuto venire per motivi personali. Mal di pancia. Senti un po', che aria si respira? Si sente in città questa presenza straordinaria? Esiste di fatto una, come dire, un'emozione popolare, come si dice in questi casi, o la vita scorre tranquilla? Dimmi. Si sente una forte fibrillazione a cui fa da contrastare una finta indifferenza da parte degli ortodossi, perché stanno capendo che se questo viaggio riesce, questa è, diciamo, una carta molto forte per gli israeliani e i palestinesi moderati. Cosa potrebbe essere, cosa potrebbe cambiare se questa visita riesce, come dici tu? A cosa potremmo assistere? L'apertura di un dialogo trilaterale che, partendo dal fatto religioso, cioè la proprietà dei beni religiosi, la gestione, come vengono, diciamo, controllate o non controllate chiese, sinagoghe e moschee, i programmi di insegnamento dove non si scrive più sui libri, magari coi soldi dell'Unione Europea, e questo i nostri radicali potrebbero anche ricordarsi tanto in tanto, che gli ebrei sono stati puniti a Auschwitz perché hanno disobbedito a Dio e altre scemenze di questo genere, cioè incominciare, diciamo, a fare un tratto a lungo respiro dove nel giro di 20-30 anni sorga fuori una generazione non abituata a giocare con fucili più o meno finti, a guardare all'altro sempre come un potenziale nemico. Sono passato adesso vicino a una scuola elementare, c'era il maestro in ricreazione con due pistole ai fianchi e i bambini che giocavano. Lo so, la vista delle armi per le strade delle città israeliane è impressionante. Uscire fuori da questo tunnel per cominciare magari a discutere, pure a litigare, ma viva Dio, senza necessariamente doversi uccidere. Non so se sarà una procedura così, così sbrigativa. Ultima cosa, questo Papa anche, forse soprattutto con una missione politica di cui abbiamo parlato in questi minuti, va a compiere questa delicata e importante visita a Yad Vashem, al memoriale dell'Olocausto. Come potremmo introdurlo questo momento dal tuo punto di vista, Filippo? Ma che il Papa rappresenta tutti noi, il Papa Yad Vashem, Giovanni Paolo II, non è andato da solo alla sinagoga, è la Chiesa che ce l'ha portato. E quando è venuto a Yad Vashem è la Chiesa cattolica che l'ha portato. La Chiesa Cattolica non ha nessun problema a riconoscere le sue colpe, l'ho detto anche pubblicamente, diciamo così, è un segno che forse attraverso il perdono e la riconciliazione si possono anche costruire percorsi sociali. D'altronde, ricordiamoci, in Sudafrica non hanno ucciso nessuno, con un processo di non di amnistia, ma di chiarimento hanno affrontato e rimosso degli scheletri terribili che erano quelli dell'apartheid. Forse anche da queste parti si potrebbe cominciare a parlare di riconciliazione, non per dimenticare ma per affrontare i problemi realmente. Tra l'altro un'altra agenzia sottolinea che una volta sceso dalla scaletta dell'aereo, probabilmente con un programma precostituito, ci sono state alcune fermate di saluto da parte di Benedetto XVI, particolarmente approfondite e affettuose. Una di queste sarebbe stata con questo Isaac Herzog, un laburista, ministro dei servizi sociali, nipote del rabbino capo Isaac Halevi Herzog, recita l'agenzia, che nella seconda guerra mondiale molto pesante al momento della preghiera del Venerdì Santo, la remissione della scomunica ai lefebriani, quindi diciamo così, abbiamo un grande Papa, una mano stesa, erano state molto dure, e che sarebbe stato anche appunto il nipote di questo rabbino che aveva cercato di ottenere grandi aiuti da Papa Pio XII senza successo, quindi è un po' nell'aria questo rinvio, no? Questo sguardo all'indietro alla storia a Pio XII, esiste? Sì, ma io credo anche le parole che vengono dalle autorità accademiche israeliane, quelle che curano gli archivi o Yad Vashem, sono da molti mesi in una specie di stand-by, dicendo il Vaticano, come tutti gli altri enti paragovernativi, non consegna i documenti prima di un certo numero di anni, però siamo sicuri che quando ci permetterà di di vedere tutto, comprenderemo meglio. Sono entrati in una specie di fiduciosa attesa. Bene, Filippo. Anche perché. Grazie, grazie di tutto. Sei un'ultima nota di carattere personale, come dice. Sei emozionato, sei contento di quello che stai vedendo? Ah, io sono arrivato in ritardo, con solito ritardo alla nostra compagnia di bandiera, certo, a Tel Aviv. Ho avuto modo di fare il percorso dell'autostrada, sì, Lod Gerusalemme con un tassista americano molto loquace che non aveva fretta di arrivare neanche lui. E ci siamo fatti una lunga chiacchierata sui massimi principi e sulle normali applicazioni. Forse da queste parti qualcosa di nuovo potrebbe cominciare. Grazie, buon lavoro e sentito ringraziamento a Filippo Di Giacomo che ci ha raccontato così dalle strade di Gerusalemme questo i primi atti di questo importante viaggio di Benedetto XVI in Israele e poi appunto alla vigilia di questo di questa visita e questo omaggio allo Yad Vashem, che ne rappresenta sicuramente uno dei momenti più solenni. Eravamo rimasti ipnotizzati dagli schermi televisivi americani, CNN, comunque la California brucia, le Filippine si allagano, come dire, no, tutto grande il disordine, tutto sotto il cielo e tutto va bene. E Kevin Costner fa la pubblicità per una linea aerea turca. Incomprensibile. Una incomprensibile pubblicità. Dicono che quando comincia a fare la pubblicità all'estero, è un momento. Comunque, mancano poco. Pochi istanti alla chiusura, vediamo semplicemente alcuni aggiornamenti. Allora, cominciamo dalla Cina perché c'era una volta la nuova influenza. Allora, l'influenza nuova c'è ancora, però sembra ormai già vecchia e abbastanza indolore. Però oggi, nella notte, tra ieri e oggi, la Cina ha annunciato il primo caso continentale. C'è un primo contagiato in Cina a 30 anni, si chiama Bao. E, le analisi gli sono state fatte nell'ospedale delle malattie infettive a Chengdu, che è la capitale poi del Sichuan. E questo giovane trentenne cinese ha preso l'influenza negli Stati Uniti perché rientrava da un viaggio in America. E nel corso della visita di Ratzinger in Israele c'è stato anche questo incontro con Noam e Aviva Shalit, ovvero i genitori del soldato Noam Shalit, prigioniero di Hamas a Gaza dal giugno 2006. L'incontro è avvenuto a Gerusalemme. Nel corso del breve colloquio il papà del giovane soldato ha chiesto l'aiuto del Papa per la liberazione del figlio, gli ha consegnato un messaggio, si suppone che sia una lettera indirizzata al ragazzo, che Noam abbia chiesto gli uffici della Santa Sede perché gli arrivi. L'ha già fatto in passato attraverso Nicolas Sarkozy e i genitori in quell'occasione sarebbero riusciti a far pervenire una lettera al figlio grazie all'aiuto del presidente francese. In un certo senso un lungo incubo, per ora ancora senza fine. Pochi istanti fa ho citato il Sichuan, che domani sarà l'epicentro, l'ombelico della Cina, perché purtroppo si ricorda il primo anniversario del terremoto, certo, che un anno fa fece più di 80.000 morti. E ieri è stata aperta una contea di Beiquan per permettere ai sopravvissuti di portare il loro omaggio, rendere omaggio alle vittime. Parliamo di una località nella quale sono morte 21.000 persone, cioè due terzi dell'intera popolazione di Beiquan, e quindi proseguono tutta una serie di cerimonie molto toccanti, molto significative, con fiori, incenso, candele. La polizia sorveglia, ma insomma non ci dovrebbero essere problemi di ordine pubblico. La contea resterà aperta fino a mercoledì. Poi invece la nuova città di Beiquan dovrebbe sorgere a 23 chilometri dall'attuale sede, ormai distrutta completamente nel terremoto, e prevede 58.000 residenti nel 2010, cioè l'anno prossimo, e che raddoppieranno, saranno 110.000 nel 2020. Nel corso del suo discorso al Memorial dell'Olocausto, il Papa ha detto: la società non può diventare una comunità di nobili aspirazioni dove a tutti di buon grado viene dato accesso all'educazione, alla dimora familiare, alla possibilità di impiego. Una società pronta ad edificare sulle fondamenta durevoli della speranza. Quali genitori vorrebbero mai violenza, insicurezza o divisione per il loro figlio e per la loro figlia? Insomma, un appello in una terra che ha bisogno di appelli, ha bisogno anche di azioni, gesta concrete. Vedremo gli esiti del viaggio papale, lo seguiremo in questi giorni qui a Jefferson 2, l'arte della svolta, dove sono io, Stefano Pistolini, in redazione Milano Enrica, in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Fabio Cantadori, la mail Jefferson 2 a radio24.it, le due pagine Facebook, redazione Jefferson 2 per contattarci direttamente, o Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself per partecipare ai nostri forum. Iscrivetevi numerosi, se volete la replica a mezzanotte, il podcast sul sito della radio, la diretta domani dopo le 4 qui su Radio 24.生涯性，沉默的人最聪明，不做无聊的回忆。